sono mesi che vietiamo alle persone di uscire di casa o di recarsi nel panettiere del comune di fianco e adesso stiamo cercando per l'Italia 34.000 persone che sono sbarcate dall'Inghilterra. Qualcosa è andato storto, qualcosa non capisco. No, ma adesso seriamente, ma voi pensate che ci sia qualcuno delle forze dell'ordine, giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, che vada a fare le pulci a qualcuno che va a cena o a pranzo dai parenti? Se nasco un'altra volta non mi sposo una siciliana. Vivo in Calabria e non posso andare alla casa al mare in Sicilia. Però l'IMU e la Tari e l'acqua la pago per intero. Bellissimo. Ma qui siamo oltre il caos. Grande. Il caos regna sovrano. Grande, grande, grande. Ma siamo oltre il caos. Oh, le persone che si stanno cercando in Inghilterra sono 44.000 e non 34.000. Caro ascoltatore, che sia andato storto qualcosa mi sembra abbastanza evidente. Sul fatto delle forze dell'ordine, l'ascoltatore dice giustamente, ma veramente credete che gli uomini delle forze dell'ordine si mettano là a fare le pulci alle persone che si spostano nei giorni di vigilia, di Capodanno, nel giorno di Natale? Allora, prima cosa, non lo so. In secondo luogo, se non lo facessero, cosa che posso anche ritenere probabile, almeno su alcune cose, appunto, la famiglia di 5 persone che si sposta con a bordo un over 14, magari si chiude un occhio. Allora vuol dire che le regole sono surreali e sono assurde. Cioè, se le forze dell'ordine sono costrette a chiudere un occhio per l'assurdità delle regole, vuol dire che le regole sono veramente folli. Poi accolgo anche con piacere la notazione di un ascoltatore che scrive: capisco che la tua intenzione è di fare informazione, ma dobbiamo chiederci se infantilizzare la gente, inducendola a porsi domande di questo genere, sia utile e se non sia più utile invece diffondere il messaggio implicito, evitare di mettersi in situazioni di contagio, punto e basta. Ma questo è quello che diciamo sempre, caro ascoltatore, per carità. Però nel momento nel quale vengono fatte delle regole, vengono messe giù delle regole, facciamo attenzione a queste regole e ne notiamo in certi casi un po' di assurdità. La regola generale è quella che sappiamo: evitare il più possibile contatti con persone che appunto con persone al di fuori del nucleo familiare, tenere la mascherina, tenere il distanziamento, eccetera eccetera. Questo è assolutamente ovvio. Poi c'è tutta una serie di cose anche pratiche di spostamento che a questo punto non sappiamo se possiamo fare oppure no, o lo riusciamo a comprendere con qualche difficoltà, a dire il vero. No, è oggettivo che tutto questo sia piuttosto confuso e confonda le idee. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, come ben sapete, è la parte dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti di martedì 22 dicembre, al microfono sempre Simone Spezia. I titoli dei giornali sono: per il Messaggero ormai è diventato, non è più la variante inglese del Covid-19, ma è nuovo Covid, testa a tappeto, è il titolo del Messaggero. Fatto Quotidiano si dedica il Corriere della Sera, restiamo un po' sul tema della parte inglese, il Corriere della Sera: test per 44.000 italiani, appunto, è come quel che dicevamo. Il Giornale la mette sulla politica: il virus è mutato, il governo incapace no. Fatto Quotidiano titola: vaccini, 3,4 milioni di dosi il 4 di gennaio. L'intervista a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. C'è il vaccino, Italia al sicuro nel 2021, è il titolo della Stampa, con governo che promette il ritorno alla normalità entro il prossimo ottobre, ma le regioni e le ASL, manco a dirlo, sono in ritardo. Secondo Libero, l'Europa non ha comprato vaccini. La Commissione europea ha rifiutato di acquistare i farmaci di Pfizer e Moderna per aspettare che arrivassero quelli francesi, così ora ci tocca attendere per le forniture. Avvenire titola: vaccino e nervi saldi. Un vaccino per salvare l'Europa, il titolo della Repubblica. Molti aprono sull'EMA che ieri ha dato il via libera al vaccino della Pfizer. La Verità titola virus cinese, variante inglese, follia italiana. Il Manifesto titola Soli e male accompagnati, e la foto è apparentemente di un camion o di un autobus, non è ben chiaro, fermo con persone con la mascherina, e siamo in Gran Bretagna. Il Quotidiano Nazionale ci parla appunto delle istruzioni per l'uso per le feste blindate. Il Sole 24 Ore ci dice che la variante inglese affonda le borse. Andremo sul Sole 24 Ore e poi anche sulla parte che ha a che fare con la Gran Bretagna. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso, perché e andiamo su una vicenda della quale ci eravamo già occupati. E la vicenda è questa. Ricordate le immense polemiche che si sono scatenate sulla sentenza arrivata da Brescia, che ha di fatto evitato il carcere ad un uomo, Antonio Gozzini, ex docente di fisica, che il 4 ottobre 2019 uccise a coltellate la moglie, Cristina Maioli, 62 anni. L'uomo assolto per un delirio di gelosia. Arrivano le motivazioni della sentenza. In 23 pagine il presidente della prima corte d'assise, Roberto Spanò, ha motivato le ragioni sottese all'assoluzione di Gozzini. C'è il testo dunque, si dice sempre bisogna aspettare le motivazioni, ma ancora una volta, devo dire la verità, le motivazioni non è che tolgano molto a quanto appariva scandalosa quella sentenza, lo appare tuttora. Deve essere chiara, scrive il giudice, la profonda differenza tra la gelosia delirante quale sintomo di patologia psichiatrica dalla gelosia come stato d'animo passionale. Paragonare le due condizioni è un errore enorme. Si crea un parallelismo tra una persona che ha un disturbo di natura psicotica con una che fa una scelta di agire. Gozzini non poteva scegliere. E qua vedete dove si insinua il rischio di un precedente, quantomeno come strategia di difesa da parte di qualcuno. La Corte, scrive ancora il giudice nelle motivazioni, non intende riservare al Gozzini un salvacondotto, un trattamento indulgente a fronte della perpetrazione di un'azione orribile, e non vi ho detto il quotidiano, ma siamo a pagina 19 del Quotidiano Nazionale. Ma semplicemente tener conto di un elementare principio di civiltà giuridica, quello della funzione rieducativa della pena, secondo cui non può esservi punizione laddove l'infermità mentale abbia obnubilato nell'autore del delitto la capacità di comprendere il significato del proprio comportamento. L'impulso omicida, si scrive ancora, si è infiltrato nella sua mente in modo silente ma con insistenza ossessiva fino a deflagrare in una, aperte virgolette, spinta irrefrenabile, ricalcando lo schema tipico della sindrome delirante, ove il disturbo non interferisce di norma con la quotidianità. Così, a pagina 19 del giorno del Quotidiano Nazionale, si raccontano le motivazioni di questa sentenza, che, devo dire la verità, si era detto aspettiamo le motivazioni, non paiono aggiungere molto le motivazioni a quello che avevamo già visto in linea di massima nella sentenza. E visto che parliamo di donne, in questo caso uccise e nell'altro caso maltrattate, che hanno subito un lutto drammatico, siamo a pagina 27 della Repubblica e siamo in cronaca con Enrico Ferro, perché parla la donna che, i cui figli sono stati uccisi dal marito, che poi si è tolto la vita nel Padovano. Anche questa è una vicenda che abbiamo affrontato ieri. E ancora una volta, fatemi dire, non è solamente una questione di pura cronaca. È una questione che ha a che fare su come si interviene in situazioni di questo genere. Ha ucciso i figli per punirmi, lo avevo denunciato, ma nessuno mi ha creduto. Ancora una volta un caso di questo genere. Lei si era separata 11 anni fa perché lui era un violento. E qua c'è il racconto della scena del delitto che vi risparmio, perché siamo in dettagli di cronaca sotto questo aspetto inutili. Il tema è se la donna avesse mai chiesto aiuto e se l'avesse mai ricevuto. Certo che l'ho fatto, ma gli atteggiamenti che io ritenevo aggressivi non bastavano alle forze dell'ordine. Evidentemente noi donne dobbiamo avere il volto insanguinato per essere credute. È un'accusa grave la sua, gli dice Enrico Ferro. Accusa grave. Come si possono uccidere due figli in quel modo? Quello che mi fa più male è che io lo so che lui voleva colpire me. Non erano loro l'obiettivo, ero io. Che padre era Alessandro? Con loro non è mai stato violento, ma non gli è mai importato di loro. Li usava per farsi invitare a cena a casa dei nostri amici. Quell'uomo viveva anche di questi espedienti. Per quale motivo li ha uccisi, secondo lei? Nutriva una rabbia profonda perché io mi sono rifatto una vita giusta con un nuovo compagno, i ragazzi stavano benissimo qua con noi, mentre invece non erano sempre contenti di andare lì da lui. La vita scorreva bene qui, molto meglio di prima. E poi il resto sono racconti di una telefonata dalla fidanzata del suo ex marito. Poi lei che dice che i suoi figli l'ha visti per l'ultima volta sabato pomeriggio, e poi è successo quello che è successo ancora una volta, a quanto pare. Un allarme inascoltato, almeno nei racconti della donna. Andiamo sulla giustizia, va, e andiamo a pagina 16 del giornale con Stefano Zurlo per un caso che ha a che fare con un giudice. Tra l'altro ospiteremo alle 8:35 oggi il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Davide Ermini. Ovviamente non potrà scendere nel dettaglio su vicende di questo genere, però è chiaro che un tema più in generale della credibilità della magistratura, a fronte anche di quello che è successo con il caso Palamara, lo affronteremo. E questo è un caso duro, perché riguarda Ferdinando Esposito, PM a Milano prima di essere trasferito a Torino, per il quale è stata decretata l'espulsione dalla magistratura. È un caso molto raro, avviene molto raramente un fatto di questo genere, ma i fatti risalgono al periodo compreso fra il 2012 e il 2014. Esposito avrebbe abusato dei suoi poteri facendo pesanti pressioni su un imprenditore, Michele Morenghi. Attenzione, In questo modo avrebbe avuto l'attico a due passi dal Duomo al prezzo di 32.000 euro l'anno. Per spuntare una cifra così vantaggiosa, Esposito avrebbe fatto balenare a Morenghi possibili scenari catastrofici, ma non catastrofici, cose che hanno a che fare con il mestiere di Esposito. Nell'esercizio della propria attività di PM avrebbe potuto trovarsi a trattare procedimenti penali aventi ad oggetto l'integratore prodotto dall'azienda di Morenghi. Avrebbe potuto procedere al suo sequestro, facendo capire a Morenghi che all'interno della procura può capitare di tutto all'azienda con l'inchiesta sbagliata. E in effetti Esposito lavorava all'epoca al sesto dipartimento della procura di Milano, quello che tratta tra l'altro i reati in materia alimentare e farmaceutica, un cortocircuito perfetto almeno nella prospettazione dell'accusa, che aveva evidenziato le forzature e il comportamento disinvolto ben oltre i confini della deontologia e del codice penale. Questa la situazione che riguarda il PM Ferdinando Esposito, che per questo è stato espulso dalla magistratura. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Se nelle RSA sono aumentati i contagi nonostante mascherine, doppie mascherine, guanti, cappellini, di tutto, c'è qualcosa che non funziona. In Germania danno il 95% delle spese fisse, vero, ma delle spese fisse, non dei guadagni. Noi pretendiamo che il governo ci compensi anche dei guadagni persi, ma non lo fa nessuno. Ti vengono incontro con le spese fisse. Buon punto quest'ultimo. Poi è vero che in Germania intervengono anche i lender con dei risarcimenti, perché ovviamente non ti basta la copertura dei costi fissi al 90%, se non vado errato, non al 95%, per ovviamente coprire tutto. Accolgo la notazione di un'ascoltatrice che fa l'avvocato in merito alla vicenda del delirio di gelosia. È un WhatsApp un po' lungo, però ve lo leggo perché dà conto di un altro aspetto della questione, dice: non è solo questione di motivazioni ma di perizie. Dice: lei dovrebbe sapere che difesa e accusa in questo caso hanno concordato sul risultato della perizia. Il delirio di gelosia è patologia mentale che impedisce di intendere e di volere. L'uomo finirà in REMS probabilmente per sempre, una misura di sicurezza per chi è socialmente pericoloso. Dice ancora l'avvocata che ci scrive: non si fa un buon servizio alle donne se, e sul tema dei casi di violenza, se si racconta solo una parte della storia. Sì, certo, c'erano ovviamente delle perizie. Conservo, cara ascoltatrice, una certa perplessità. Poi, per carità, ovviamente lei ne sa più di me, quindi mi fermo e conservo una certa perplessità dettata, per così dire, dal buon senso. Fatemi tornare sulla legge di bilancio, va? E sulla manovra, perché ieri abbiamo accennato al famoso tema delle mitiche mancette, le mancette bipartisan che vengono date in giro dai parlamentari con proposte di modifica alla manovra. Oggi ci torna il Fatto Quotidiano a pagina 4 e mette nomi e cognomi dei parlamentari che hanno presentato gli emendamenti, i famosi emendamenti mancetta. Cosa sono? Sono quelle proposte di modifica alla legge di bilancio che fanno sì che si inseriscano per piccoli capitoli di spesa e per ingraziarsi piccoli pezzi di elettorato e il proprio territorio, appunto, alcuni soldi là in giro. Per esempio, l'ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin, che da inizio pandemia si è sperticata per richiedere l'apertura degli stabilimenti termali, ottiene 100.000 euro per l'attivazione di master di secondo livello in medicina clinica termale. Nel fondo cosiddetto mancette sono finiti anche 5 emendamenti per il sostegno del settore tessile all'Unione Industriale di Biella. Nulla di male in tutto questo, se non fosse che a presentare l'emendamento è Roberto Pella di Forza Italia, che oltre a fare il sindaco di Valdengo, provincia di Biella, ha ereditato dal padre l'impresa tessile di famiglia. Il forzista Mauro Dattis ottiene un incremento di 5 milioni per il consorzio universitario per la ricerca socio-economica e per l'ambiente. Sono stanziati 3,9 milioni per le celebrazioni dell'ottavo centenario del presepe che si terrà nel 2023, e questo lo sapevate bene. Il primo è stato realizzato da San Francesco nel comune di Greccio, a pochi chilometri da Rieti, città natale di Alessandro Fusacchia, promotore dell'emendamento. E ancora, l'ex sindaco di Leonessa, provincia di Rieti, il meloniano Paolo Trancassini, strappa 2 milioni per mettere in sicurezza la via Salaria che da Roma porta, indovinate un po', a Rieti. Ragazzi, è così, non ci potete fare niente. Il fondo mancette che c'è nella manovra finisce sempre in questo modo. Molto spazio sui giornali, e giustamente, e visto che parlavamo di perizie, alla perizia che attesterebbe la perizia richiesta dal GUP il fatto che il crollo del ponte Morandi fu dovuto alla carenza di manutenzione. Ovviamente il giornale che vi dedica più spazio è il Secolo XIX, il Giornale di Genova, con un'apertura che suona così: con una normale manutenzione il Morandi non sarebbe crollato. Marco Menduni firma un commento sul quale arriveremo. Il riassunto vi do quello dalla prima pagina perché rende perfettamente l'idea. Il ponte Morandi è crollato a causa della corrosione dei tiranti della Pila 9 per un processo di deterioramento iniziato poco dopo la costruzione, e quindi con un difetto costruttivo già alla base evidentemente, e proseguito per decenni. Ma non sarebbe crollato se ci fossero stati controlli e manutenzioni costanti. La perizia che punta il dito contro i mancati interventi delle autostrade è stata depositata ieri dai periti nominati dal giudice nell'ambito dell'incidente probatorio che dovrà stabilire la verità sul crollo. Autostrade si riserva di commentare le conclusioni della perizia dopo averla valutata nel dettaglio. Parla anche la portavoce del Comitato delle Vittime, Egle Possetti, intervistata appunto sempre sul Secolo XIX, che dice: ora è tutto scritto, come disse il presidente Mattarella, questo crollo ha nomi e cognomi e spetta la giustizia individuarli. Il commento di Marco Menduni è questo: le parole che scuotono la coscienza, ci sono voluti 2 anni e mezzo per cristallizzare in un documento giudiziario quella che era stata l'impressione negli attimi immediatamente successivi alla tragedia del Ponte Morandi, crollato senza manutenzione. Funziona così: in uno stato di diritto, per amministrare correttamente la giustizia, anche e soprattutto in nome delle 43 vittime, servono riscontri precisi e inattaccabili e non sensazioni, per quanto veritiere. Ma il documento del GIP, fondato sulla base delle relazioni dei periti, mette in luce una realtà inquietante, forse ancor più di quella che si era intuita. Una grande opera, uno snodo fondamentale di tutto il nord-ovest, ma soprattutto un viadotto percorso ogni giorno da decine di migliaia di persone, non è stato sorvegliato. E il tema è esattamente questo. Vedremo poi se questa cosa avrà un qualche impatto politico, ossia se farà subire un'accelerazione al famoso processo di caducazione, ossia alla vendita, di fatto alla vendita di autostrade, anche se le cose là, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ci paiono piuttosto ferme. C'è la cautela di Autostrade per l'Italia che dice: valuteremo ogni dettaglio. Come dicevo, la reazione del Comitato delle Vittime, che dice: una conferma ai nostri sospetti, ora il processo, vedremo come evolveranno le cose. Torniamo sul Fatto Quotidiano, prima di andare a tutte le questioni della pandemia, a tutte le questioni della politica. Non è niente male questo pezzo di Marco Palombi a pagina 13, che se la prende con la regione Emilia-Romagna e col presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Ma non è male perché solleva una questione sulla quale immagino che a un certo punto arriverà una risposta alla Regione Emilia-Romagna. Intanto però il punto è questo. Il punto è che è in arrivo, in sostanza, un condono edilizio in Emilia-Romagna. Di quelli, non dico classici, ma quasi. Eccolo qua, tecnicamente parlando funziona così. L'articolo 32 della nuova legge regionale, varata il 16 novembre dalla Giunta Bonaccini, passata di gran carriera nella commissione del Consiglio regionale, arrivata ieri in assemblea e destinata al via libera domani, prevede in sostanza la sanatoria degli abusi edilizi per i quali sia stata presentata in passato domanda di condono col meccanismo del silenzio assenso. Letteralmente, scrive Palombi, una cosa mai vista. Per gli scettici questo è il dispositivo, l'attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di sanatoria edilizia presentate per il condono del 1985, è rilasciata entro 6 mesi dalla presentazione di apposita istanza, sempre che la pratica sia stata portata avanti in maniera corretta e ovviamente che non esistano vincoli inaggirabili, come quello delle belle arti. Il problema, scrive Palombi, è che se uno non ha ottenuto il via libera alla sanatoria dell'85, neanche con le riaperture di termini successive, tipo quella di Berlusconi, è proprio perché quell'abuso non si può sanare. Questo dicono le esperienze e le sentenze da 30 anni. E questo è, sarà chiamato a rispondere Stefano Bonaccini della Regione Emilia-Romagna su questa vicenda. Veniamo alle questioni pandemiche, prima di andare, se riusciamo a anticipare, anticipiamo al traffico e così ci prendiamo un attimo di pausa e poi veniamo alle questioni pandemiche e a quelle politiche, tra un attimo. Passiamo alla pandemia, alle cronache dalla pandemia, dove ovviamente queste cronache ci parlano soprattutto della vicenda inglese. E direi che possiamo andare a pagina 6 del Sole 24 Ore, dove i pezzi sono firmati a Nicole degli Innocenti e Simone Filippetti. Innanzitutto Nicole degli Innocenti ci riassume un po' come sono messe le cose. La variante inglese fa paura, oltre 40 paesi sospendono i voli. In attesa di regole comuni europee, la Francia blocca anche i collegamenti attraverso la Manica. code a Dover, timori sulle forniture di alimentari, ma Johnson esclude rinvii per Brexit. Scrive Nicole degli Innocenti, la Gran Bretagna è isolata dall'Europa e dal mondo. Il timore della nuova variante di coronavirus, particolarmente contagiosa, responsabile della recente impennata di casi in Inghilterra, ha portato oltre 40 paesi a sospendere i collegamenti aerei passeggeri con il Regno Unito. La Francia è andata oltre, bloccando anche i trasporti di merci sui traghetti o nei tunnel sotto la Manica per 48 ore, creando code di 500 camion a Dover. Nei periodi di punta 10.000 camion al giorno fanno il tragitto tra Dover e Calais. E ancora i pezzi sono quello di Simone Filippetti, nel Kent di treni e camionisti bloccati, un assaggio di Brexit, si intitola così e inizia con quella frase famosa, è un titolo del Times degli anni 30, nebbia sulla Manica, il continente è isolato. Questa sorta di snobismo inglese nei confronti del continente, e però appunto adesso è la Gran Bretagna ad essere isolata. Simone Filippetti che ci racconta ancora dello tema della beffa degli italiani abbandonati in Gran Bretagna, bloccati in fila al gate. Nel pomeriggio di domenica all'aeroporto di Heathrow c'erano molte persone in attesa di imbarcarsi sul volo all'Italia da Londra a Milano, quasi tutti italiani, famiglie, uomini d'affari, studenti o giovani lavoratori. Dei 700.000 connazionali che vivono in Inghilterra erano gli emigrati dell'ultima ora, prima dell'obbligo di autoquarantena a tornare in Italia, ma non sono mai partiti. E ci sono un po' di interviste, il panico, il rischio contagio, una folla inferocita di 200 persone che si è scagliata sul caposcalo quando questo ha detto che non si poteva partire, l'assembramento che ha spaventato anche gli addetti allo scalo. I passeggeri sono stati stipati in un hangar esterno al freddo per ore in attesa di informazioni dal governo italiano che non sono mai arrivate. E poi c'è quello che bisogna fare in Italia, perché attenzione, se 700.000 sono gli italiani che vivono in Gran Bretagna, dobbiamo fare i conti su quanti italiani sono già qua e sono tornati nelle scorse settimane. Leonard Berberi e Fiorenza Sarzanini ci portano sul Corriere della Sera, pagina 9, esattamente su questo problema. Oltre 44.000 in due settimane, tante sono le persone arrivate in Italia dalla Gran Bretagna e per tutte sono già scattati i controlli. Dovranno essere sottoposte a tampone e indicare i propri contatti. Un'operazione prevista dall'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, per rintracciare il maggior numero possibile di cittadini che potrebbero aver contratto la nuova variante del Covid-19, molto più contagiosa secondo gli scienziati. Una situazione di grandissimo allarme causata dal ritardo nella comunicazione da parte delle autorità britanniche. E anche qua, come vedete, si insinua ancora una volta il sospetto che era già stato sollevato dal consulente del governo Walter Ricciardi, che gli inglesi non abbiano avvisato in tempo. Insomma, una quasi perfetta replica di quello che è successo a Wuhan. Voli bloccati, trasporti bloccati e le accuse agli inglesi di aver insabbiato. Nonostante l'impennata di contagi registrata a metà dicembre, non era scattato alcun allerta. Soltanto domenica pomeriggio, preoccupati per la curva epidemiologica in continua salita, il ministro britannico della salute Matt Hancock ha avvisato i colleghi europei. La situazione è fuori controllo. 12 ore prima il dipartimento scientifico dell'ospedale militare Celio aveva comunicato che una funzionaria dell'intelligence in servizio all'AISE, sposata con un inglese, era positiva alla variante del Covid-19. E il governo ha deciso di bloccare i voli in partenza e in arrivo per l'Italia, ma anche di vietare gli ingressi con treni auto a chi nei 14 giorni antecedenti alla presente ordinanza ha soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. E quindi adesso scatteranno i tamponi, il tentativo di rintracciare queste 44.000 persone e i tamponi per queste persone. Anzi, se ne fossero in ascolto, si mettessero in contatto con le autorità, perché io mica sono sicuro che riescano a rintracciarli tutti. Quindi se con buon senso volete sottoporvi a tampone, è saggio. Allora, come vi dicevo prima, quando si placa il virus, la politica fibrilla. Quando il virus riprende corpo e i timori per il virus riprendono corpo, ed è il caso della cosiddetta variante inglese, la politica si placa. E dunque sembra tutto non dico che, che sia tutto rientrato in questa semifantomatica crisi di governo, e però le tensioni si sono attenuate improvvisamente. Forse da una parte perché chi sosteneva sotto traccia l'iniziativa di Matteo Renzi, ossia il Partito Democratico e un pezzo di Movimento 5 Stelle, hanno smesso, almeno apparentemente, di sostenere questa iniziativa. Forse perché lo stesso Giuseppe Conte ha fatto qualche concessione. Fatto sta che andiamo sul retroscena di Carlo Bertini sulla Stampa, che ancora una volta è il retroscena che non è un retroscena, nel senso che poi le parole che trovate in questi retroscena, come si diceva ieri con Paolo Mieli, sono in realtà parole che arrivano dai diretti interessati, che fanno filtrare, che sia per ragioni di strategia, per ragioni di tattica o ci sia della verità, questo non lo sappiamo. Però eccolo, sono i big del Partito Democratico a parlare in questo caso. Se Renzi frena, ecco alla fine cosa ha combinato. Le lancette tornano al 5 novembre, quando decidemmo di riscrivere il patto di legislatura, ma noi partiti della coalizione saremo più deboli nei confronti di Conte. Poco prima che la delegazione Dem entri a Palazzo Chigi per un vertice interlocutorio, i vertici del PD si scambiano queste considerazioni, dopo il flash di agenzia che riporta la fumata bianca di Renzi per bocca di Ettore Rosato. Quel "ci sono dei fatti positivi, qualcosa è cambiato", che ha appiattito i sismografi dei palazzi. I quattro big in consultazione permanente la pensano nello stesso modo. Si parla di Zingaretti, Orlando, Franceschini e Bettini. Se Matteo pensa che stiamo bluffando, si sbaglia. Se fa cadere Conte, si va al voto, provare per credere. Ma non è detto che questo retroscena filtrato sulla pagina del giornale sia esso stesso un bluff, per dire si va al voto per mettere paura a Renzi e poi in realtà magari l'idea è tutt'altra. Si parla di tregua nel governo a pagina 14 del Corriere della Sera, Italia Viva che dice qualcosa è cambiata, oggi l'incontro di Conte appunto con le delegazioni del PD e del Movimento 5 Stelle, cioè ieri, e oggi il vertice con i renziani, anche di politica parleremo tra poco con la vice ministra dell'economia Laura Castelli. Conte in sostanza cede, dice ci servirà uno strumento di monitoraggio, ce lo chiede l'Europa, parla della task force naturalmente, ma non abbiamo mai pensato a una struttura centralizzata invasiva che possa intralciare le prerogative e le responsabilità di ministeri, regioni e sindaci. Come vedete tutto si ridimensiona e quella che sembrava una quasi crisi di governo sembra diventata una bolla di sapone già esplosa. C'è qualcosa invece che si prepara a scoppiare a Roma e che forse è già scoppiato con l'assoluzione di Virginia Raggi nel processo venerdì. Tanto che il Messaggero riporta a pagina 9 un'ipotesi che colpisce molto, perché dato che a questo punto non ci sarà più accordo tra PD e Movimento 5 Stelle. Il PD ha picchiato talmente duro su Virginia Raggi, è talmente duro sulla gestione di Roma da parte di Virginia Raggi che è impensabile che possa sostenerla come candidata al Campidoglio. E dunque il Movimento 5 Stelle cosa sta pensando? A cosa si sta pensando? A un rinvio del voto. La carta Virginia, scrive Mario Aiello, era una carta scaduta agli occhi dei 5 Stelle. Era l'intoppo che impediva ai vertici del movimento di accordarsi con il PD per un candidato comune. Quel proverbiale Mister X in rosso-giallo? Ma chi? Su cui Zingaretti ha puntato invano le sue carte, così come lo hanno fatto i governisti del grillismo. La soluzione della Raggi l'altro giorno ha scompaginato tutto e trasformato Virginia agli occhi del Movimento 5 Stelle da intoppo a grande risorsa. E tanti saluti alle speranze o velleità di avere un candidato grillo dem da scegliere e da schierare. Questo è quello che scrive Mario Aiello. E quindi il tema è guadagnare tempo nella speranza che le vecchie ruggini tra Virginia e 5 Stelle riescano ad essere coperte dalla reciproca dissimulazione e dalle vicendevoli convenienze. La speranza è che a causa del Covid le elezioni capitoline previste per maggio slittino a dopo l'estate. E questa sarebbe l'ipotesi per risolvere un problema politico che è il problema di Virginia Raggi. Nel frattempo, a proposito del Movimento 5 Stelle, ci fa sapere Emanuele Lauria a pagina 19 della Repubblica che il Movimento ha un record, sono 55 i parlamentari che hanno abbandonato i gruppi 5 Stelle della Camera e del Senato dall'inizio della legislatura. In Parlamento ogni partito ha dentro almeno un ex grillino, 4 nella Lega, 3 nel PD, 3 in Più Europa Azione, 2 in Fratelli d'Italia, 2 in Italia Viva, 2 in Liberi Uguali, 1 in Forza Italia, persino 1 in Forza Italia, pensa, uno in Noi con l'Italia e via dicendo. Nel gruppo misto ce ne sono 29. GR24, ci ritroviamo tra poco.